Capitolo 8. Una persona distinta. Una mattina, verso la metà di marzo, le quattro sorelle si emozionarono moltissimo nel ricevere una lettera contenente la richiesta di fotografare un quadro presso uno studio a St. John's Wood. Era stata scritta con una calligrafia quasi indecifrabile, inviata dai Sycamores e firmata Sidney Darrell. Mi domando come sia venuta a conoscenza di noi, disse Lucy, che provava una particolare ammirazione per le opere di questo artista. Forse lo conosce Jermyn, rispose Gertrude. Se lo conosce, probabilmente già gli avrà parlato di noi. Ecco, il signor Jermyn, disse Gertrude, ci dirà di persona. Frank, che era stato fatto entrare da Matilda, si accomodò nella sala d'attesa dove stavano le sorelle, con lo sguardo della nascente primavera nel volto acceso e negli occhi scintillanti. Ho portato le prove di stampa del woodcut, disse, tirando fuori un pacchetto umido dalla giacca da pittore. Le Lorimer leggevano sempre le bozze della storia su cui doveva lavorare, quindi si teneva un consiglio generale per decidere quale fosse l'avvenimento migliore da illustrare. Lucy prese il pacchetto e gli diede in mano la lettera. «Non siete tremendamente contente?» disse. «Non ne sapete nulla?» chiese Lucy. «Ma in che senso? Voglio dire, siete voi che ci avete raccomandata lui?» «Non è merito mio. Questa lettera è semplicemente la ricompensa di una gloria ben meritata». Vi ringrazio, signor Jermyn. Sono convinta abbiate ragione. Conoscete il signor Sidney Darrell? L'ho conosciuto, ma è una persona importante, sapete, signorina Lucy, ed è quasi sempre all'estero. Sì, aggiunse Gertrude, quei suoi deliziosi dipinti veneziani. Oh, Darrell è un uomo intelligente, troppo affezionato alla scuola francese, forse per i miei gusti. La cosa curiosa è che, sebbene il suo lavoro sia valido quanto geniale, è nella sua reputazione che c'è piuttosto qualcosa di straordinario. Tutto questo, affermò Gertrude, sembra eccitante. Penso che sia dovuto all'uomo in sé, proseguì Frank. Oakley lo conosce abbastanza bene. Dice che vi potrebbe capitare di conoscerlo una sera a cena e vi chiederebbe di andare allo studio. La mattina dopo, la prima cosa che ricevereste sarebbe un biglietto per rimandare l'appuntamento. Vi direbbe che è mortificato, ma sta partendo proprio quel giorno per l'India. Dipinge soggetti indiani? No. Ma ogni tanto è preso dalla mania della caccia grossa, spara alle tigri e scanna maiali e così via. Credo che il suo studio sia più che mai un museo di trofei di caccia. Ad ogni modo, Lucy, chi di noi deve andare ai Sycamores domani mattina? Devi andare tu, Gertie. Non posso fidarmi di nessun altro per rifinire quelle stampe del piccolo Jack Oakley. E sono state loro promesse da così tanto. Gertrude consultò la lettera. Dovrò prendere la macchina fotografica grande e quindi una carrozza. Speravo di potervi accompagnare, disse Frank, ma strano a dirsi, sono molto impegnato questa settimana. Vorrei che anche noi fossimo così impegnate, rispose Gertrude. Le cose vanno un po' meglio, ma il lavoro procede a rilento. Considero questa lettera di Darrell una notevole spinta in avanti, esclamò Frank speranzoso. Sarà in grado di raccomandarvi ad artisti non troppo poveri, lui, aggiunse, tendendo la mano in segno di saluto, con un sorriso luminoso che smentiva il tono messo delle sue parole. Ora, vi prego, non dimenticate che voi tutte verrete per il Ted, Oakley e me sabato pomeriggio. E la signorina Devonshire, le avete dato il mio invito? Sì, disse Lucy prontamente. Quindi aggiunse dopo una pausa, potrebbe venire anche suo fratello? Dice che gli farebbe piacere. Frank la esaminò rapidamente con quei suoi occhi limpidi. Certamente, se volete. Non è un cattivo ragazzo. E se ne andò in modo brusco. Un po' scortese da parte del signor Jermyn, disse Gertrude. Lucy si allontanò con un lieve rossore sul bel viso. Sarebbe scortese per chiunque, e proseguì verso lo studio. Philly stava trascorrendo la giornata dai Devonshire, ma tornò a casa per cena, quando l'eccitazione delle sorelle per l'argomento della lettera di Darrell si era ormai placata, e non me ne venne fatta alcuna menzione mentre erano sedute al tavolo. Al termine del pasto, Phyllis andò alla finestra, tirò la tenda e si divertì, come era sua abitudine, a guardare in strada. Vorrei che tu non lo facessi, disse Lucy, così chiunque può vedere dritto nella stanza. Perché sprechi il fiato, Lucy? Sai che non serve a nulla dirmi di non fare le cose quando voglio farle? Gertrude, che nutriva lei stessa un segreto affetto infantile per la strada illuminata a gas, per la vista delle persone che andavano di fretta, per i lampioni, per le carrozze che guizzavano ora dentro ora fuori dalla foschia giallognola come tante lucciole, non prese parte alla disputa, ma si mise al lavoro per riparare una vecchia gonna di Phyllis miseramente lacerata. Nel frattempo, la bambina viziata continuava alla finestra le sue osservazioni, che parevano procurarle un notevole divertimento. «La finestra di Frank Germain è illuminata, quella superiore», esclamò. «Immagino si stia vestendo. Mi ha detto di avere un ballo pomeridiano in Harley Street. Vorrei tanto andare a un ballo». C'era uno sguardo di malizia negli occhi di Phyllis mentre guardava verso Lucy, che era assorta nella bozza del woodcut. «Phyllis, stai tossendo terribilmente. Vieni via da quel posto pieno di spifferi», esclamò Gertrude con reale preoccupazione. «Oh, sto bene, Gertie. Ah, ecco che esce Mastro Frank. È bagnato in terra. Così ha arrotolato i pantaloni e le sue scarpe di vernice sporgono dalla tasca del cappotto. Chiedo quante miglia alla settimana percorra per ballare. È proprio piacevole vedere una persona vivere con una tale gioia in ogni aspetto dell'esistenza», disse Gertrude quasi a se stessa. «Tu, povera, cara creatura, blasé. È un bello spettacolo vedere i giovani che si divertono, come diceva il ragazzino sul punch, non è così? Mi chiedo se il signor Germain abbia intenzione di camminare per tutto il tragitto. Forse prenderà l'omnibus all'angolo. Non sale mai su un mezzo più costoso di un omnibus, per dirla con parole sue». Stancandosi improvvisamente di quel gioco, Phyllis abbassò le tende e, venendo verso Gertrude, si inginocchiò ai suoi piedi sul pavimento. «È un po' triste, dico bene, Gertie, guardare la vita da una finestra dell'ultimo piano». Una strana fetta di dolore attraversò Gertrude, mentre teneramente accarezzava la testa con l'ornacciola di Phyllis. «Non hai sentito le nostre novità», disse cambiando discorso. «Ecco, leggi questo». E prendendo il biglietto del signor Darrell dalla tasca lo diede a Phyllis. Quest'ultima lo lesse con un certo languore. «Sì, suppongo sia un bene che ci venga affidato un lavoro da una persona di tale livello», osservò Sidney Darrell. «Non ti ho detto di averlo conosciuto la scorsa settimana dagli Oakley, il giorno in cui sono andata per il tè?» La tenuta dei Sycamores era separata dalla strada da un alto muro grigio, oltre il quale si estendeva un giardino di una certa dimensione che sembrava trascurato, e nella mattina di marzo di cui parlo, quest'ultima aveva un aspetto singolarmente malinconico. La casa sembrava anch'essa avvolta dalla malinconia, come le case che sono molto poco vissute, e pareva consistere quasi interamente in un grande studio realizzato come un'ala sproporzionata della struttura principale. Gertrude venne subito condotta nello studio da un domestico dall'aspetto serioso che annunciò che il suo padrone l'avrebbe raggiunta in pochi minuti. L'ambiente nel quale la giovane si ritrovò era vasto e non recava nessuno dei segni di abbandono e disuso che contraddistinguevano invece la casa e il giardino. Era arredato con tutto lo splendore confusionario che distingue lo studio di un nuovo artista alla moda: bottini di varie regioni, frutti di diversi pellegrinaggi, affastellati in ogni angolo disponibile, con più riguardo al pittoresco che all'utilità. Avvicinandosi al camino scolpito, Gertrude cominciò a scaldarsi le mani al fuoco, una posizione poco adatta per fare un bilancio degli averi di quel grande personaggio di cui, come poi confessò, le rimase solo l'impressione di pelle di tigri e lanterne veneziane. La luce del fuoco giocava con la sua figura snella e con la ricchezza ormai spenta di un grande paravento di vecchio cuoio spagnolo, che racchiudeva quel po' di spazio nell'immediata vicinanza del camino. Un punto in cui erano stati adunati le poltrone più lussuose e gli ornamenti migliori dell'intera collezione, e dove, in quel momento, l'aria era pesante per la fragranza di tuberosa, alcuni rametti della quale erano disposti in un costoso vaso di vetro veneziano appoggiato su un tavolino. In pochi minuti si sentirono il rumore di passi fuori e il suono pieno delle note profonde della voce di un uomo. «E non, non, non, vous n'êtes plus Lisette, ne portez plus ce nom!» Mentre i passi si avvicinavano, le parole della canzone si potevano percepire distintamente. Gertrude si girò verso la porta che stava di fronte al camino e in quel mentre la canzone cessò. La tenda venne scostata e una persona, presumibilmente il cantante, entrò nella stanza. Era un uomo di mezza età, di statura media, con una chioma castano chiara con la riga al centro e dei baffi e una barba alla Van Dyck dello stesso colore. Non era in senso stretto bello, ma era investito di quell'aria di distinzione che il potere e la sicurezza del potere soltanto possono conferire. Il sospetto complessivo era una combinazione magistrale di ordine e stravaganza. Si fece volutamente avanti verso Gertrude. Permettete, signorina Lorimer, che mi presenti. Parlò con noncuranza, ancora con una nota di disappunto nella voce e un'ombra di malumore negli occhi dalle palpebre pesanti. Gertrude, alzando lo sguardo e incontrando quello plumbeo e freddo di lui, si rese improvvisamente conto che il suo cappello era logoro, che i suoi stivaletti erano rattoppati e malfatti, che il vento le aveva sparpagliato le ciocche di capelli sul viso. Cosa c'era nello sguardo fisso di quest'uomo che la faceva all'improvviso sentire vecchia, impacciata, ridicola e sciatta, tanto da farle desiderare ardentemente di afferrare la macchina e fuggire via da lui per non tornare mai più? Cosa c'era in quello sguardo? Gertrude, come sappiamo, possedeva una vivida immaginazione che probabilmente era responsabile delle sensazioni di sopraffazione, provocazione e sfiducia con cui la giovane seguì il signor Darrell attraverso la stanza fino a uno dei cavalletti, sul quale era esposto un eccezionale studio a olio di una vista invernale del Canal Grande a Venezia. Non vi era di certo motivo, almeno all'apparenza, per i sentimenti che nutriva per il comportamento dell'artista. L'uomo, con le sue stesse mani, mise la pesante macchina sul treppiede e la fissò, chiedendole con il suo tono di voce grave e continuo in che modo le fosse comodo, e osservò, conservando in maniera educata, che aveva avuto il piacere di conoscere sua sorella la settimana prima dagli Oakley. Con sua indicibile irritazione, Gertrude si ritrovò un po' intimidita dall'uomo e dalla sua noncurante cortesia, dietro la quale le sembrava di cogliere il disprezzo in agguato, e mentre il suo sguardo, glaciale e ironico, da sotto quelle palpebre pesanti, cadeva di tanto in tanto su di lei, cominciò a prendersela non solo con se stessa, ma anche con il genere di donna al quale apparteneva. Dopo aver preso gli accordi necessari e aver dato le necessarie direttive, Darrell andò verso il camino e sprofondò in una poltrona, dietro il paravento di cuoio che impediva a Gertrude la vista di quel personaggio così ben agghindato. Lei, dalla sua parte, incominciò il suo compito senza alcun divertimento e fu felice quando lo terminò e poté riporre i vetri scuri. Mentre staccava la macchina dal supporto, la tenda antistante e il vano della porta fu accostata per la seconda volta ed entrò un uomo che non era stato annunciato. Nello stesso attimo, Darrell si fece avanti da dietro il paravento e i due uomini si incontrarono al centro della stanza. Molto lieto di rivedervi, mio caro. A Gertrude sembrò che un'ombra di deferenza fosse calata sui modi dell'artista, mentre stringeva cordialmente le mani al nuovo venuto. Era un uomo alto e nerboruto, di un'età compresa fra i 35 e i 40 anni, con le spalle ricurve e la barba castana. Dall'angolo in cui era posto il cavalletto, la signorina Lorimer poteva vederne il volto e l'occhiata casuale che gettò su di lui si arrestò improvvisamente per l'impressione di averlo riconosciuto. Dove aveva visto prima quella fronte ampia, quegli occhi grigio chiari, quei lineamenti ruvidi ma bonari? La faccia di quest'uomo era abbronzata, allegra, sorridente. La faccia che invece le aveva ricordato era pallida, smunta, consumata per la veglia e per il dolore. Poi, come in un lampo, vide tutto di nuovo davanti agli occhi: la camera squisitamente inondata dalla luce del sole di ottobre, la defunta che giaceva lì con i capelli dorati sparsi sul cuscino, il volto barbuto rivolto altrove e la forma curva della figura accovacciata alla finestra. Spero soltanto, rifletteva, che non si ricordi di me. Credo sia difficile che i ricordi evocati dalla mia vista possano essere piacevoli. Non desidero in alcun modo recitare la parte dello scheletro alla festa. Colta dalla deprimente sensazione di non aver diritto di esistere, Gertrude raccolse le sue cose e attraversò la stanza. Darrell le andò incontro lentamente. Mettete giù quelle attrezzature pesanti, disse. Lord Watergate. Era proprio lui, si avvicinò al camino e stette lì a riscaldarsi le mani. Posso chiedervi l'incomodo di farmi chiamare una carrozza? Certamente, ma non venite vicino al camino? Darrell suonò il campanello che si trovava sulla mensola del camino e indicò a Gertrude una sedia accanto al paravento. Gertrude, comunque, preferì restare in piedi e per qualche istante le tre persone sul tappeto di pelle di tigre fissarono le fiamme in silenzio. Allora Darrell, senza tante cerimonie, disse: «La signorina Lorimer è stata così gentile da fotografare il mio canal grande». Lord Watergate, alzando improvvisamente lo sguardo, incontrò quello di Gertrude. Per un momento un'espressione perplessa velò i suoi occhi, poi si trasformò in riconoscimento e quindi nel ricordo. Dopo qualche esitazione disse: «Deve essere difficile rendere giustizia con una fotografia a un dipinto come quello». Lei gli restituì un'osservazione banale: «Oh, le tonalità spesso vengono sorprendentemente bene». Dentro di sé diceva: «Come devo odiare la mia vista». Darrell guardò prima l'uno poi l'altro, vagamente sospettoso della loro conoscenza reciproca, quindi respinse il sospetto valutando l'assurdo. «Vi scriverò per quei disegni», disse, mentre veniva annunciata la carrozza. Lucy e Phyllis stavano saltellando nello studio, come fanno i cuccioli in primavera, quando Gertrude tornò stanca e abbattuta dalla sua spedizione ai Sycamores. Le ragazze si fiondarono subito su di lei per avere notizie. Si lanciò sulla sedia da posa, che quasi girò per la violenza dell'azione. «Dimmi qualcosa di bello», esclamò. «Fammi un complimento sulla mia bellezza, sui miei talenti, sulle mie virtù. Non esiste lusinga talmente indecente che non riuscirei a sopportare». Phyllis volse lo sguardo da lei a Lucy e si batté la fronte con una pantomima espressiva. «Sei tutto quello che vi è di più delizioso. Solo dici del grande artista». «Era odioso», sbottò Gertrude. «Lei non si è mai lagnata, non dico di sé, ma del nostro pane quotidiano», disse Phyllis con uno sgomento un po' artificioso. «Non ci torno di nuovo, se è questo che intendi». «Ma cos'è accaduto, Gertie? Io l'ho trovato abbastanza educato». «Educato? È peggio di un villano una persona educata che dice così spudoratamente: "Questo è per il mio bene, non per il vostro"». «Sei proprio irritata, Gertie. Cosa ti ha fatto l'illustre Sidney?» chiese Lucy, che non sopportava né i piaceri né i dispiaceri intensi. Esclamò Gertrude ridendo mestamente. «Come posso spiegarmi? È quel genere d'uomo che, se una donna stesse parlando con lui dei moti dei corpi celesti, starebbe tutto il tempo pensando alle forme delle sue caviglie». «Santo cielo, Gertie, lo hai sperimentato?» Phyllis spalancò ancora di più gli occhi graziosi mentre parlava. «Noi tutte sappiamo», osservò Lucy con uno scintillio nello sguardo, «che non c'è niente di meglio che cominciare con una piccola antipatia». Phyllis assunse una posa. «Gli amici si incontrano per separarsi, ma i nemici una sola volta per unirsi». «Ragazze, cosa vi è preso?» esclamò Gertrude sbigottita. «Gertie è scandalizzata», disse Lucy. «Ci si imbatte sempre e inavvertitamente nel suo senso del decoro». «È come il vescovo di Rumtifu», aggiunse Phyllis, che fisse il limite nei modi più impensati.